ancora dei suoi contatti con i casalesi. Il governo inizia oggi il lavoro sul DEF, il documento di economia e finanza. Il ministro degli esteri Mogherini promette un taglio degli stipendi degli ambasciatori. Secessionisti, Maroni dice, mettono in galera le idee, Grillo, si combattono con la buona politica. Parla anche il presidente della CEI Bagnasco, l'Italia è una sola. Quasi la metà dei siriani ha abbandonato la propria casa dall'inizio del conflitto. 10 milioni i profughi, 1 milione solamente in Libano. La regina Elisabetta è arrivata a Roma in visita ufficiale, atterrata poco fa, sarà a pranzo col presidente della Repubblica, nel pomeriggio incontro col Papa. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete come sempre le potete commentare al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter, mi trovate Simone Spezia o ancora sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo anche in apertura, tra l'altro avete sentito poco fa il nostro promo, che anche Effetto Giorno sarà in diretta dal Vinitaly nella giornata di martedì prossimo. Iniziamo dalla cronaca, dal nuovo arresto per Nicola Cosentino. Il punto con Laura Viggiano da Napoli. Buongiorno Laura. Buongiorno. Dove ci vuole la politica c'è mio fratello Nicola, dove ci vogliono i soldi ci sto io e dove ci vuole la forza c'è pure la forza. È una delle minacce registrate nel corso delle indagini dei carabinieri di Caserta, che hanno ricostruito un'attività di gestione illecita di impianti di distribuzione di carburante svolta da tre società riconducibili all'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino e ai suoi fratelli. I tre sono stati arrestati stamattina nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Napoli. Complessivamente sono 13 provvedimenti cautelari, due indirizzati ai fratelli del boss Michele Zagaria. I reati contestati vanno dall'estorsione alla concussione, illecita concorrenza con violenza o minaccia, calunnia, favoreggiamento, riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Gli indagati, grazie a funzionari regionali del comune di Casale di Principe e della società Kuwait Petroleum Italia, riuscivano ad ottenere permessi facili anche con coercizioni ai danni di altri amministratori. Secondo la procura si è in presenza di un vero e proprio sistema capace di incidere profondamente sul regolare andamento del mercato, in cui è stato decisivo il potere politico di Nicola Cosentino e quello criminale derivante dal rapporto stabile che l'ex parlamentare poteva vantare con il clan dei Casalesi, i cui vertici avevano imposto agli affiati il divieto di estorsioni e danni degli impianti riconducibili ai Cosentino. È tutto, linea allo studio. E grazie Laura Viggiano. È una vicenda che in parte riguarda la stessa Napoli, che arriva in realtà da Roma. C'è l'archiviazione per l'ex capo della polizia Nicola Izzo, per il prefetto Giovanna Iurato e per altri indagati nell'inchiesta sugli appalti, appunto, per la costruzione del centro elaborazione dati della polizia a Napoli. Izzo, dopo il coinvolgimento dell'inchiesta, si era dimesso dalla carica di numero 2 della polizia. La politica e soprattutto la politica economica. Il governo inizia a lavorare sul DEF, lo ha annunciato ieri Matteo Renzi prima di rientrare in Italia, e nel frattempo si discute di stipendi di impiegati pubblici, nella fattispecie gli ambasciatori. Ci sono le dichiarazioni di questa mattina del ministro Mogherini. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Simone, è così, la spending review riguarda tutti i ministeri e dunque anche la Farnesina, dove il ministro Mogherini annuncia risparmi per 108 milioni di euro in 3 anni. Il piatto forte sarà proprio il taglio degli stipendi degli ambasciatori. In particolare, ha spiegato il ministro questa mattina parlando in audizione davanti alle commissioni estere di Camera e Senato, si prevedono risparmi per 16 milioni di euro nel 2014, 42 nel 2015 e 52 nel 2016, e si agirà sulla riorganizzazione della rete diplomatica e consolare e culturale, sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare all'estero e, come si diceva, anche sulla revisione del trattamento economico del personale all'estero. Il ministro ha però ricordato che rispetto al 2008 il bilancio del ministero si è già ridotto del 25%, con un taglio del 20% dell'organico dei diplomatici e del 10% dei funzionari, rendendo il ministero degli esteri, ha detto Mogherini, tra le amministrazioni meno costose. Il suo bilancio è infatti pari allo 0,2 del bilancio statale e allo 0,1 del PIL. Per avere un termine di paragone, la Francia invece dedica alla propria diplomazia l'1,8 del proprio PIL e la Germania l'1,1. E dunque, ha concluso il ministro, l'Italia nella sua politica estera opera già con risorse ridotte di fronte a sfide crescenti. E da Roma è tutto. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Saluto Vincenzo Miglietta in diretta a Montecitorio. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Per parlare appunto del DEF, il documento di economia e finanza che si dovrebbe andare a definire e approvare la settimana prossima, che cosa si prevede, qual è il quadro al momento, soprattutto dal punto di vista dei conti pubblici, Vincenzo? Sì, Simone, lavoro che, lo ricordavi, dovrebbe portare alla presentazione del DEF la prossima settimana, l'8 e il 9 di aprile, come ha confermato lo stesso Premier Renzi, in tempo per trasmettere il documento poi a Bruxelles. Le cifre dovrebbero essere quelle già anticipate da Palazzo Chigi, leggermente al ribasso per quanto riguarda il prodotto interno lordo rispetto alle previsioni del governo Letta. L'ex ministro Saccomanni prevedeva a fine anno un 1%, dall'attuale Ministero dell'Economia fanno sapere che non si dovrebbe superare invece una crescita tra lo 0,8 e lo 0,9%. Con gli 80 euro in busta paga, auspicato sempre Renzi, spero che alla fine si arrivi all'1% e lo si superi, quindi anche il deficit 2014, ora previsto al 2,6%, non dovrebbe subire grandi scostamenti. Ma il documento guarda, lo ricordiamo, al prossimo triennio, vi dovrebbe essere allora un debito in discesa dal 2015, come previsto dal Fiscal Compact, e poi la messa a regime del piano di privatizzazioni già avviato con il dossier Poste, che dovrebbe riguardare 9 società pubbliche. Parallelamente, ed è questa la scommessa breve fondamentale per l'esecutivo Renzi, e il reperimento dei fondi per dare seguito alla promessa di tagliare l'IRPEF, gli 80 euro in busta paga costano al regime 10 miliardi. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e restiamo sulle cronache economiche per parlare dei prezzi delle case in Italia. Stamattina l'Istat ha diffuso i dati del 2013. Se si avessero soldi a disposizione, sarebbe il momento migliore per comprare casa. I dati Istat sul 2013, diffusi oggi, confermano che i prezzi delle abitazioni continuano a scendere, una tendenza che si è affermata negli ultimi 2 anni. In particolare, il calo dei prezzi è più forte sulle vecchie case, o come vengono definite ora, case già esistenti. L'anno scorso i prezzi sono calati del 7% rispetto al 2012. Ma a scendere stavolta sono anche i prezzi delle nuove costruzioni. Meno 2,4%, quando fino al 2012 erano stati in crescita. In media, fra case vecchie e nuove, i prezzi sono calati nel 2013 del 5,6%, un calo raddoppiato rispetto a quello registrato nel 2012. Nonostante prezzi più contenuti, però, le compravendite stentano a riprendere. L'anno scorso gli acquisti sono calati di circa il 9% e nel 2012 c'era stato un crollo dei rogiti per le case addirittura del 25%. Le vendite dovrebbero cominciare a riprendere quest'anno, visto che sta crescendo la domanda dei mutui per l'acquisto casa da parte delle famiglie. A marzo la richiesta di mutui è aumentata del 10% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, questi dati sui mutui sono interessanti, sono stati diffusi e anticipati oggi dal Sole 24 Ore. Nei primi 2 mesi dell'anno le erogazioni di prestiti per l'acquisto della casa sarebbero aumentate di oltre il 18%, secondo un campione di oltre 100 banche rispetto allo stesso periodo del 2013. Il Sole 24 Ore dedica tra l'altro oggi uno speciale alle nuove tendenze del mercato dei mutui, cercando di rispondere ad alcune domande: quali sono le novità sul fronte fiscale, come individuare le offerte migliori in questo momento. Tutto questo sul Sole 24 Ore di oggi. Prosegue il nostro viaggio all'Aquila in vista dell'anniversario del terremoto che si celebra domenica. Sono 5 anni. Sono morti viventi, noi li aiutiamo, li facciamo fare una camminatina, non hanno più voglia di vivere, non hanno più niente. Per ore seduti sui balconi a guardare le montagne cariche di neve, ora che almeno il sole riscalda la temperatura. Sono gli anziani dell'Aquila, deportati dal terremoto nei vari quartieri dormitorio lontani chilometri dal centro, in quelle che tutti chiamano le casette di Berlusconi o nei moduli abitativi provvisori. Qui, senza auto, si resta prigionieri di un silenzio che 5 anni dopo il sisma è carico di malessere e dei problemi comparsi pure in queste 185 palazzine costruite per gli sfollati. L'acqua dentro la casa, dentro dalle pareti che gli scende l'acqua. Le mappe l'hanno dovuto chiudere, hanno dovuto sfrattare tutti quanti perché non si poteva più vivere. Vivo in un MAP. In una delle case più difficili? Sì, purtroppo non sono di alta qualità, quindi si rovinano col tempo. Ci piove dentro in alcuni casi? Sì, in alcuni casi sì. La manutenzione, insieme a luce, gas e pulizia, ha fatto aprire una voragine nel bilancio del comune. Molti dei 19.000 inquilini non vogliono pagare, denunciano errori, un migliaio non ha mai versato neppure il canone di locazione e i conti parlano di un buco da 11 miliardi. Pure questo è sintomo del malessere di una comunità che non vede prospettiva davanti a sé. E sia all'Aquila, molti cantieri ora sono finalmente aperti. In alcuni paesi del cratere i tempi sembrano ancora più lenti. Il centro storico non è che si sta muovendo da, cioè nei paesi... Nei paesi è ancora peggio che all'Aquila. Sì. Di un paese vicino, Poggio Vicenza, più fermo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. E veniamo alle nuove reazioni sugli arresti di ieri per gli secessionisti veneti. Dopo gli arresti, le polemiche, all'indomani dell'operazione contro i secessionisti veneti accusati di terrorismo, la Lega Nord insiste nel criticare i magistrati che hanno coordinato l'inchiesta. Mi sembra che stiano mettendo in galera le idee e le opinioni. Questa è una prova di debolezza e non farà altro che rinfocolare lo spirito indipendentista dei veneti e non solo, sostiene il governatore della Lombardia Maroni, parole in linea con quelle del segretario federale del Carroccio, Salvini. Domenica alle ore 18 a Verona, che chiamiamo a raccolta tutta la gente che vuole che il pensiero sia libero, non intercettato, non incarcerato. Usiamo i carabinieri per arrestare i mafiosi, non per arrestare le idee. Ma ad intervenire sulla vicenda oggi è anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'Italia è una sola, le difficoltà ci sono per tutti, non solo per una parte del paese, sottolinea il cardinal Bagnasco, secondo il quale la questione della decentralizzazione di alcune funzioni dello Stato va vista in un'ottica di non violenza, di collaborazione e di unità del paese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E torneremo tra poco sulle tensioni all'origine di questa vicenda, subito dopo le 13:15. Intanto ci spostiamo all'estero per gli aggiornamenti dal Venezuela. Un governo totalitario, una dittatura. La Chiesa venezuelana non usa mezze parole con l'esecutivo Maduro, accusato di essere la causa della crisi che insanguina il paese, denunciando la brutale repressione delle proteste. Il governo sbaglia se crede che la crisi si possa risolvere con la forza, ha ammonito il presidente della Conferenza Episcopale locale, a pochi giorni dalla disponibilità offerta dalla Santa Sede per mediare fra governo e opposizione. Allarmata e preoccupata anche l'Europa, alla quale Maduro ha risposto definendo infamanti le dichiarazioni provenienti dal vecchio continente e riversando ancora una volta tutta la responsabilità degli scontri e delle vittime sull'opposizione. Nelle immagini che arrivano da Caracas si vedono i bossoli dei proiettili, si vede il sangue per le strade, ragazzi inseguiti e picchiati. I dati ufficiali parlano di 40 morti dall'inizio delle manifestazioni. Dal paese però arrivano numeri diversi, come ci racconta Carlos, nato in Venezuela e residente in Italia. I morti arrivano quasi al centinaio. Ogni anno in Venezuela ci sono circa 25.000 morti dovuti alla delinquenza che resta impunita. Proprio perché era un sistema già del chavismo, quello di armare queste bande, venivano utilizzate proprio per mantenere la gente a bada. I manifestanti denunciano il silenzio dei media, mentre il leader dell'opposizione, Leopoldo Lopez, resta dietro le sbarre. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo di Siria adesso, dove sono, come sentivate dai titoli, circa 10 milioni i profughi tra quelli esterni e quelli interni. Ha raggiunto il numero del milione, il numero di rifugiati in Libano, che è il luogo che ne accoglie di più in assoluto. Abbiamo sentito, Valentina Furlanetto ha sentito Anna Maria Luarini, che è la responsabile dell'UNICEF a Beirut, appunto, l'ha sentita un paio di giorni fa e già ci anticipava questi dati. Sentiamo. Tra meno di 48 ore probabilmente si raggiungerà il numero di 1 milione di rifugiati siriani in Libano. Questo vuol dire che il Libano ha la più alta quota di rifugiati siriani e vuol dire che su una popolazione di 4 milioni di abitanti, uno su quattro è un siriano. Sono passati ormai 3 anni dalla guerra in Siria, quindi i bambini in particolare, che sono i più vulnerabili, sono bambini in peggiori condizioni di salute di quanto non lo fossero 3 anni fa. Non sono ormai andati a scuola per un lungo periodo, ma soprattutto sono bambini che hanno assistito alla morte di parenti, amici. Perché, nonostante questi numeri tragici, le raccolte fondi non sono eclatanti anche in Italia, l'opinione pubblica non è scossa? Prima di tutto perché la crisi siriana è una crisi molto politica. Per la pubblica opinione è veramente difficile capire qual è la crisi umanitaria. Tra l'altro bisogna dire anche che i bisogni sono talmente tanti per 1 milione e più di rifugiati che parliamo di cifre ormai inimmaginabili. E le voglio dare anche un esempio, purtroppo la situazione peggiora, quest'anno ci sarà sicuramente una mancanza d'acqua, si parla già di siccità. E ne saranno vittime in uguale misura sia i libanesi che i profughi siriani. In Ucraina le notizie ci raccontano che il capo dei servizi di sicurezza ha sostenuto che l'operazione contro il terrorismo lanciata dall'allora presidente Viktor Yanukovych deposto fu di fatto l'organizzazione di omicidi di massa della gente che protestava a Kiev e adesso Kiev naturalmente attribuisce tutta la colpa allo stesso Yanukovych. È stato affermato dai servizi segreti ucraini che gli agenti russi hanno partecipato alla repressione a Maidan, notizia subito smentita da Mosca. La regina Elisabetta è arrivata in Italia ed è a pranzo col presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nell'epoca della rottamazione spinta fa un certo effetto la visita lampo a Roma della regina Elisabetta, 88 anni il prossimo 21 aprile, accompagnata dal quasi secolare consorte Filippo Duca di Edimburgo. Sua maestà viene ricevuta in questi minuti al Quirinale da Giorgio Napolitano per una colazione privata, poi alle 15.30 si incontrerà con Papa Francesco. Anche Napolitano, il più british dei nostri politici, non scherza in longevità. Con i suoi 88 anni, 9 mesi e 5 giorni, ha superato il precedente record di Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani. Napolitano al secondo mandato è invece perfetto per un brunch con Elisabetta, si intendono, hanno dei retroterra comuni, con quell'eleganza rigorosa che si impara dai precettori inglesi per Elisabetta o nella vecchia scuola quadri del Partito Comunista per Re Giorgio. Passati indenni tra due secoli, chissà, magari parleranno di quei due monelli di Camerun e Renzi. Con l'onusto duca di Edimburgo parleranno invece di caccia alla volpe, di quelle cacce che si vedono nelle stampe ottocentesche, con una muta di bracchi, i cavalli bardati e, alla fine, una gagliarda fiutata di tabacco. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci scrive Gianluca via SMS, i veneti sono arrabbiati, diciamola così. È di questo che parleremo tra un attimo dopo la viabilità. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. In apertura una notizia che interesserà molti contribuenti, probabilmente un po' tardiva, sono arrivati i correttivi, gli studi di settore 2013 terranno conto della particolare congiuntura che ha interessato le attività economiche, parere positivo è arrivato dalla commissione degli esperti che ha eseguito un'indagine su più di 2 milioni di contribuenti. Estorsione, concussione e concorrenza illecita, un nuovo arresto per l'ex parlamentare Nicola Cosentino, nell'inchiesta si parla ancora di contatti con i casalesi. Il governo inizia oggi il lavoro sul DEF, il ministro degli esteri Mogherini promette un taglio degli stipendi degli ambasciatori. Secessionisti, Maroni, mettono in galera le idee, Grillo aggiunge, si combattono con la buona politica. Quasi la metà dei siriani ha abbandonato la propria casa dall'inizio del conflitto, 10 milioni i profughi, 1 milione solamente in Libano. Francesco Peghin, presidente della Fondazione Nord-Est, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Che da molti anni ormai, Fondazione Nord-Est, che da molti anni analizza il sistema e lo studia, il sistema Nord-Est, se così lo possiamo definire, con tutte le sue differenze. Ci vorrei partire da questo SMS brutale che ci è arrivato da un ascoltatore poco fa. Dice, i veneti sono... non dice proprio così, dice i veneti sono arrabbiati, anche se non dice proprio così. Rende l'idea, Peghin? Ma questo sicuramente c'è un disagio diffuso che peraltro non è probabilmente solo del Veneto, ma di larghe frange del paese. E questo ha causato situazioni di protesta che è andata oltre le righe. Credo che quando si parla di secessione e indipendenza si va un po' oltre e diventa molto rischioso per la tenuta dello Stato, questo io non lo condivido. Senta, c'è un dato interessante, tra l'altro state per uscire con la vostra analisi sul 2014, c'è un dato interessante in un sondaggio realizzato invece nell'analisi del 2013, dal quale emergeva che proprio il nord-est era la zona del paese che, naturalmente escludiamo il mezzogiorno, però tra le zone più produttive, insomma, che fanno più PIL del paese, era quella che riteneva di avere la minor centralità politica ed economica. Allora, quello che stiamo vedendo in queste ore, insomma, al di là delle manifestazioni più estreme, è un sintomo anche di questo disagio, cioè la percezione di, in realtà, di non essere presenti nel dibattito del paese e di non essere centrali nel paese. Ma questo è un'interpretazione. Io penso che il Veneto è una regione che è stretta tra due regioni a statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, quindi la richiesta di autonomia, di poter gestire le risorse al proprio interno è storicamente molto forte ed è tornata di attualità in questo momento di crisi, di difficoltà dello Stato centrale di dare delle risposte in termini di riforme e di rifar partire l'economia. E quindi questa centralità penso sia un difetto di centralità, una conseguenza di come stanno andando le cose. Il disagio però è profondo. Io vorrei capire come ne vede l'uscita, come se ne esce da questo disagio. Ci sono due facce, diciamo, della medaglia. Da un lato ritengo che il Veneto abbia il diritto sostanzialmente di avere pari condizioni rispetto alle regioni vicine, quindi puntare a maggiore autonomia e magari a una regione a statuto speciale può essere una via istituzionale per rispondere a una questione veneta che non è nuova. Dall'altro lato credo, e questo secondo me è il tema più importante, è come fare ripartire lo sviluppo economico in Italia. Questo riguarda tutto il paese, non solo il Veneto. Sappiamo che l'Italia ha perso molta competitività in questi anni a causa delle mancate risposte che sono state date dalla politica. Ci sono imprese che stanno andando molto bene in Veneto, anche che stanno vincendo sui mercati globali, sono poche ma sono delle punte avanzate che possono essere un esempio se si riesce a far tornare l'impresa al centro delle politiche economico-industriali del paese, di quello che potrà essere un nuovo sviluppo, e questa sarebbe la risposta più importante. Grazie a Francesco Peghin, presidente della Fondazione Nord-Est, per essere stato con noi. Saluto Gennaro Migliore, capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà alla Camera. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io vorrei partire con lei proprio da questo, in realtà, lei che tra l'altro è un uomo del Sud e che sicuramente non condividerà, no, le idee che sono state portate avanti da questi secessionisti arrestati ieri, e però chiaramente è l'espressione di un disagio che il Nord, un pezzo del Nord, vive in maniera forte. Vorrei sapere un suo giudizio anche a uomo di sinistra. Guardi, innanzitutto sono assolutamente convinto che andranno accertate le responsabilità individuali, perché il ricorso all'arresto per la mia cultura garantista deve essere solo in estrema ratio, e quindi nonostante non mi divida tutto da un'idea secessionista, peraltro praticata anche con iniziative che possono avere un carattere violento, io credo che bisogna essere molto prudenti e non far eccitare ancora di più gli animi, magari trasformandoli in dei simboli o addirittura in dei rappresentanti, diciamo, di una battaglia che non c'è, perché oggi la crisi attraversa tutta l'Italia ed è stata per lungo tempo, dal mio punto di vista, coltivata nel Mezzogiorno, dove si sono fatti disinvestimenti, non si è investito nella politica industriale, è stata l'anticipazione della crisi che ha poi investito tutto il paese. Per questo c'è bisogno di misure nazionali. Oggi l'idea di potersi salvare da soli, addirittura con una secessione di un'area che un tempo poteva essere definita priva di contesti problematici, ma oggi è pienamente dentro questa dimensione della crisi, a mio giudizio è velleitario e anche controproducente per gli stessi abitanti del nord. Sono stati eccessivi gli arresti, secondo lei, Migliore? Guardi, io sono sempre convinto che per arrivare all'arresto, ovviamente non entro nel merito di un'azione giudiziaria, però debba esserci un pericolo imminente e assolutamente indispensabile. Io considero queste manifestazioni, che appunto possono prevedere persino la violenza, sempre da condannare, sempre pericolose, ma insomma non vorrei che si spettacolarizzasse. C'è stato un eccesso forse da parte dei magistrati, no? Ma forse sì, però insomma non voglio polemizzare con la magistratura, chiedo solo che ci sia sempre molta prudenza nell'utilizzare lo strumento della custodia cautelare. Prima di salutarla, vorrei portarla invece sulle vicende più vostre, che sono quelle che riguardano naturalmente le elezioni europee alle quali ci approssimiamo. Non ho capito bene una cosa, questa famosa lista che dovrebbe sostenere Alexis Tsipras, le firme ce le avrà oppure no? Sì, sono sicuro che ce le avrà, perché abbiamo fatto un grande sforzo in tutta Italia, dove abbiamo dovuto contrastare una legge francamente assurda. In altri paesi europei bastano 15.000 firme. Voglio dire agli ascoltatori che in questo paese, per presentarsi alle europee, bisogna raccoglierne 150.000, ma non solo in tutta Italia, anche 3.000 firme in tutte le regioni, non facendo distinzione tra Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, e Valle d'Aosta, che ne ha 100.000, dove il PDL, per dire una cosa, alle ultime elezioni, non di firme ma di voti ne ha raccolti 4.000, quindi siamo di fronte ad una situazione nella quale il diritto dei cittadini ad essere rappresentati è difficile. Detto questo, siccome c'è un entusiasmo diffuso in giro, le firme ci saranno. Le firme ci saranno, è convinto. E un'ultima cosa, mi è sembrato che all'interno del suo partito ci fosse una certa divisione sotto traccia tra il sostenere Tsipras e una sorta di voto utile per Schulz, invece, che è il candidato del Partito Socialista Europeo. Guardi, la divisione non c'è sotto traccia, perché è stato oggetto di una discussione congressuale. Al congresso è stata decisa la linea di appoggiare fin dal primo momento Alexis Tsipras con una lista che l'avrebbe sostenuto. Ovviamente questa lista non è in contrapposizione con chi eventualmente in una fase successiva dovrà essere un soggetto con cui costruire una sorta di centrosinistra europeo, ma adesso siamo convintamente su Alexis Tsipras. Grazie a Gennaro Migliore, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, capogruppo in realtà alla Camera di Sinistra Ecologia e Libertà. Buona giornata, noi ci fermiamo, tra un attimo con la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Estorsione, concorrenza sleale, nuovo arresto per l'ex parlamentare Nicola Cosentino. Nell'inchiesta si parla ancora dei suoi contatti con i casalesi. Il governo inizia oggi il lavoro sul DEF, il documento di economia e finanza. Il ministro degli esteri Mogherini promette un taglio degli stipendi degli ambasciatori. La regina Elisabetta è arrivata a Roma in visita ufficiale, atterrata poco fa, è a pranzo col Presidente della Repubblica, nel pomeriggio incontro con il Papa. La vicenda dei secessionisti, Maroni dice, mettono in galera le idee, Grillo si combattono con la buona politica. Parla anche il Presidente della CEI, Bagnasco, che dice l'Italia è una sola. È il momento della borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, la giornata oggi è abbastanza positiva, più 0,31% sul FTSE MIB, più 0,3% sul FTSE All Share, va un po' peggio il resto d'Europa. Sì, Milano si mostra appena più tonica in realtà delle altre borse europee, questo perché ha sofferto maggiormente nella giornata di ieri. Il clima è in generale prudente in attesa delle decisioni della Banca Centrale Europea, attese a breve, secondo le previsioni degli analisti dovrebbe confermare l'attuale politica monetaria. L'interesse è comunque tutto per la conferenza stampa del Presidente Mario Draghi, che comincerà alle 14.30. E ricordo tra l'altro agli ascoltatori che prima di chiudere ci collegheremo come sempre quando c'è la riunione del direttivo della BCE con Francoforte, proprio per fare il punto con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore. Ci sono settori in particolare in luce oggi, Isabella? Ma guarda, sono ben impostate le azioni delle banche, in particolare sono in evidenza le Intesa San Paolo, fanno più 1,4% sull'ipotesi che l'istituto ceda 27 miliardi di sofferenze a un fondo di private equity, bene anche le Monte dei Paschi, più 1,2%, questo in attesa delle mosse della fondazione che dovrebbe cedere ulteriormente azioni fino a portarsi alla soglia del 2,5%, invece debole il settore del lusso, Moncler meno 1,4%, Ferragamo meno 0,7%, Yux meno 2%. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso e ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E vedo che vi dividete ancora sulla questione del Veneto, stanno arrivando molti sms, chi ci dice che il referendum è imprescindibile, la Crimea ha deciso perché il Veneto non può farlo, qualcuno che dice i veneti cominciano a scocciare, sanno solo piangere e lamentarsi, in Emilia abbiamo avuto il terremoto e l'alluvione, ci siamo rimboccati le maniche in silenzio, chi come Chris da Treviso dice uno stato di quasi 5 milioni di persone non sarebbe certo il più piccolo in Europa, nemmeno come PIL, export e cultura. E chi ci dice, come Sergio da Venezia, che il grosso problema è culturale, il cosiddetto benessere che fino a qualche anno fa c'era ha fatto sì che si preferisse andare a lavorare dopo le scuole medie e girare col macchinone piuttosto che studiare, forse questo ormai è anche un luogo comune, caro Sergio. Comunque ne possiamo continuare a parlare se volete anche sulla nostra pagina Facebook, oppure mi scrivete su Twitter, se volete mi trovate Simone Spezia. Io saluto adesso Giovanni Apullonio, buongiorno. Buongiorno. Dovevamo sentirci ieri, in realtà poi eravamo un po' stretti coi tempi, abbiamo avuto qualche difficoltà. Chi è Giovanni Apullonio? È un rappresentante sindacale della Micron, stabilimento di Agrate Vimercate. Micron o Micron, tra l'altro? Micron, perché siamo una siete americani, americana. Siete americani. La Micron che acquisì sostanzialmente nel 2007-2008 una divisione. In realtà è 2010. Abbia pazienza. Oggi proprio mi va malissimo. Uno scorporo di ST Microelectronics sostanzialmente. E adesso sostanzialmente la multinazionale americana che cosa minaccia? Minaccia di chiudere. Allora, diciamo cosa? Diciamo che non minaccia, ma concretizza un'apertura di procedura per licenziamento collettivo datata 21 gennaio scorso. La procedura parla di 419 licenziamenti dal nord al sud Italia e stiamo parlando in prevalenza di ingegneri, tecnici e ricercatori che lavorano nel campo della microelettronica. E voi siete tra l'altro quelli che in una sorta di provocazione avete deciso di mettervi, aperte virgolette, in vendita su eBay, no? Sì, certo. Crediamo nel nostro valore e nelle nostre competenze. Basti pensare che il percorso nella microelettronica in Italia è iniziato decenni e decenni fa. Stiamo parlando di un percorso di almeno 40-50 anni. SGS ATES, realtà che hanno iniziato e hanno portato avanti la tecnologia in Italia. Io sono solito dire che dopo l'aerospaziale in Italia l'alta tecnologia si fa in ST Microelectronics. Purtroppo gli americani sono arrivati nel 2010, hanno acquistato parte, quindi il ramo memorie rilasciato da ST Microelectronics, hanno acquisito soprattutto brevetti, tecnologie, capitale umano, ma soprattutto portafoglio prodotti e clienti, e adesso ottenuto quello che volevano, quindi il mercato, le quote di mercato mondiale nel campo delle memorie, se ne vanno. Spremuto il limone, stanno andando via. Procedura di licenziamento. Senta Apullonio, voi avete incontrato oggi il ministro delle attività produttive Guidi, vorrei capire come sono andate le cose. Sì, le segreterie nazionali FIM, SIOM e UILM hanno incontrato il ministro Guidi sulla vertenza Micron, quindi per parlarne. L'incontro si è concluso da poco, diciamo che ha toccato due aspetti fondamentali. La necessità per l'Italia, se vuole rimanere in un settore industriale avanzato come quello della microelettronica e soprattutto appoggiato da cosa? Da programmi europei, parliamo di Horizon 2020, sono stati stanziati miliardi di euro e quindi la microelettronica è considerata altamente strategica dall'Europa. Il governo deve mettere in campo strategie industriali coerenti in sostegno al settore, perché lo reputiamo fondamentale per lo sviluppo del paese. Ecco, però sul caso singolo, mi scusi Apollonio, sul caso singolo poco si può fare, perché questi sono americani, decidono di spostare una parte della produzione, di riportarsela negli Stati Uniti, ben difficile fermarli. Ecco, sul caso singolo siamo andati, come fatto sinora, a opporci a quello che è stato il rude atteggiamento e comportamento della direzione per quel che riguarda proprio le strategie con cui hanno portato avanti la trattativa e l'avvertenza. Per quel che riguarda l'impegno del governo, diciamo che è stato annunciato un impegno per un'azione attraverso il ruolo che svolge NST Microelectronics con il fondo strategico per far rientrare gli esuberi annunciati da Micron. E quindi c'è una possibilità che rientrino gli esuberi in sostanza? Allora, c'è una possibilità, stiamo parlando soprattutto di altissime competenze, sì, formatesi oltre che in un percorso di studio ovviamente, quindi dottorati, PhD, in esperienze all'estero, stiamo parlando di competenze di cui non possiamo fare a meno. Lei dice giustamente, Apollonio, gente che in Italia conviene tenersi, insomma, tanto parliamo di fuga di cervelli, appunto i cervelli sono anche questi. Deve scongiurarla questa fuga di cervelli, perché altrimenti appunto nel settore high tech, dell'alta tecnologia, dell'alta competenza rimarrà ben poco. Questo è veramente un pezzo d'Italia che rappresenta eccellenza e competenza riconosciuta in tutto il mondo. Ce l'abbiamo già, è solo da mantenerlo. Grazie Giovanni Apollonio, rappresentante sindacale della Micron, stabilimento di Agrate, Vimercate. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Prima di dare la linea a Mario Platero, una notizia appena arrivata: la due diligence è praticamente conclusa, l'ha detto Gabriele Del Torchio, amministratore delegato di Alitalia, in relazione alla trattativa con Etihad. Adesso stiamo aspettando di vederci, ha concluso, per approfondire i temi ed entrare nella fase negoziale. Mario Platero, e poi ci ritroviamo subito dopo per sapere che cosa ha deciso la Banca Centrale Europea. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are for certain that there was at least one shooter and at this point that person was believed shot, but we don't know whether or not that was self-inflicted or not. There are multiple injuries at the scene, so terrore a Fort Hood in Texas, è la più grande base militare del Texas, una delle più grandi in America, pensate che ci sono 50.000 soldati. Ebbene, di nuovo, perché già nel 2009 ci fu un attentato, uno sparatore solitario ha cominciato a sparare sulla gente intorno alla base, su militari, su civili. Ancora in corso l'inchiesta per capire esattamente la dinamica di questi eventi, che si è sviluppata improvvisamente nella tarda serata di ieri a New York. Di certo sappiamo che l'attentatore è morto, ma per almeno una mezz'ora, un tre quarti d'ora, l'attentatore era libero in questa base. Si sapeva che c'era stata questa sparatoria, non si riusciva a catturarlo. Insomma, l'America di nuovo è rimasta paralizzata davanti alle dirette televisive che davano notizie di questa possibile strage. Ma questo ha portato immediatamente alla memoria quello che capitò il 5 novembre del 2009, sempre a Fort Hood, una tragedia, quando Nidal Malik Hassan, era uno psichiatra di religione musulmana, improvvisamente imbracciò un fucile automatico e uccise 13 persone, 13 militari e civili, e ferì più di 30 persone. Dunque questa è la prima delle notizie che abbiamo avuto ieri dagli Stati Uniti, una notizia tragica che porta una sorta di maledizione su questo forte che a un certo punto aveva 100.000 soldati, un forte per i mezzi corazzati, ma una gran quantità di divisioni militari diverse fra loro. Pensate che questo forte è il più grande datore di lavoro in Texas, in tutto il Texas. Dunque, prima notizia, America sotto shock per questo ennesimo attentato, sotto shock per questa ennesima manifestazione di violenza improvvisa, ingiustificata, incomprensibile, che di tanto in tanto emerge, ora in un cinema, ora in una base militare, ora per strada, in questo paese che non riesce a trovare quel giusto equilibrio fra il diritto al porto d'armi e invece l'essere armati e avere il grilletto facile. Seconda notizia. This is a moment to be really clear-eyed and sober about this process. It is difficult, it is emotional. It requires huge decisions, some of them with great political difficulty. All of which need to come together simultaneously. John Kerry, segretario al Tesoro, è andato varie volte, in decine di volte addirittura, in Medio Oriente per cercare di rimettere in piedi il processo di pace. Ebbene, ieri ha avuto una brutta notizia, perché nel momento in cui cercava di far quadrare il cerchio per poter prolungare un negoziato di pace che non aveva portato a molto, che sarebbe scaduto in questi giorni, anzi doveva scadere addirittura alla fine di marzo, ecco, per poterlo prolungare fino al 2015, aveva cercato di mettere insieme un pacchetto di compromesso fra israeliani e palestinesi. E improvvisamente, proprio quando si stava così cercando di mettere gli ultimi dettagli a questo accordo, Mahmoud Abbas, il leader palestinese, ha fatto una richiesta di ammissione a 15 organizzazioni internazionali, dicendo che Israele non aveva rispettato i suoi impegni, e cioè la liberazione di numerosi prigionieri palestinesi entro il 29 di novembre, e dunque a questo punto il patto per Abbas non era più da rispettare. Un passo indietro potenzialmente serio, grave, perché potrebbe dar luogo a una escalation se Israele a quel punto non si sentirà più vincolato a certi impegni e comincerà a ricostruire in Cisgiordania, se da parte palestinese le frange più violente cominceranno a prendere le armi per una nuova intifada. Beh, insomma, la situazione è davvero grave e pericolosa. Anche di questo continueremo a occuparci nei prossimi giorni. Infine, una notizia politica. Principles of stare decisis look at a number of factors, settled expectations, one of them, as you mentioned, whether or not particular precedents have proven to be unworkable. John Roberts, il capo della Corte Suprema americana, beh, una sentenza direi molto importante per alcuni, per i democratici molto grave, ma insieme a Samuel Alito, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, i conservatori della Corte Suprema, con una maggioranza di 5-4, sono riusciti a far passare una importante decisione, una decisione che consente al cittadino americano di superare i limiti che finora erano stati imposti, limiti per donazioni ai politici di $48,600 per donazioni che un individuo può fare in 2 anni a vari candidati, con un massimo di $2,600 per candidato, e questo massimo resta. Ecco, questi limiti non hanno più ragione di esistere, perché sono in violazione, secondo la sentenza della Corte Suprema, del primo emendamento della Costituzione. In violazione, dunque, nella sentenza, del diritto di un individuo a partecipare al dibattito politico senza limiti alcuni. Perché, ragiona la Corte Suprema, un giornale può appoggiare quanti più candidati vuole e un cittadino non può? Questo è incostituzionale. Ecco, questa decisione è importante perché avrà un impatto forte sulle elezioni politiche già del 2014, ma poi su quelle del 2016, in un quadro in cui i democratici già nel 2014 rischiano di perdere il controllo del Senato. Anche questa notizia merita un approfondimento. 3 notizie diverse che abbiamo avuto ieri dall'America, 3 notizie difficili. Quest'ultima aumenta la polarizzazione, quella relativa al Medio Oriente conferma come gli Stati Uniti siano deboli nella loro leadership internazionale. La prima ci conferma i pericoli che derivano dal grilletto facile, un'America in evoluzione che ieri ha attraversato una giornata molto difficile. Ci sarebbero umiliati approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo quasi 30 anni sta per arrivare la sequel di Top Gun. Tom Cruise di nuovo protagonista, ma al passo coi tempi questa volta dovrà vedersela con i droni. E dunque, per un'America che ieri, come dire, è rimasta senza fiato dalla colonna sonora di Top Gun, Berlin, Take My Breath Away. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento con America 24 dal lunedì al venerdì alle 13:45. Goodbye and get going! America 24. E prima di chiudere, come sempre, una volta al mese, quando c'è la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, andiamo a vedere qual è con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Eccoci, che cosa ha deciso la BCE? I mercati finanziari si aspettavano, la BCE non ha toccato i tassi di interesse, non ha ceduto nemmeno alle ipotesi di dover far qualcosa a fronte di un'inflazione che è allo 0,5%, quindi ben lontana, meno della metà dell'obiettivo della BCE di stare sotto ma vicini al 2%. Quindi tassi invariati, adesso bisogna aspettare fra poco più di mezz'ora la spiegazione di Mario Draghi che ci dirà perché non ha fatto nulla sui tassi, anche se i rischi di deflazione aumentano. Rischi di deflazione aumentano, ci sono ipotesi, Alessandro, che la BCE si possa muovere nei prossimi mesi? Ma a questo punto direi che l'aspettativa è che lo possa fare a giugno, quando presenterà le nuove previsioni di inflazione, che è possibile che a questo punto vengano riviste al ribasso, e quindi a quel punto la BCE potrebbe intervenire. Se in effetti l'inflazione, che è la loro stella polare, peggiora, la BCE prima o poi qualcosa dovrà fare. E grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della giornata in GR24 anche sulle dichiarazioni di Mario Draghi. I ringraziamenti Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno torna domani alle 13. Se volete scriverci, Effetto Giorno è radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook, mi potete scrivere su Twitter, insomma praticamente quello che volete. Per quanto riguarda invece l'informazione, ci ritroviamo tra poco dopo la pubblicità con GR24.